24 mattino. Rieccoci in onda, 8:19, è giunto il momento dei cani e dei gatti. Bello, luminoso, addirittura con una maglietta a girocollo, c'è il grande Oscar Giannini. Eccoci qua, fratello, buon inizio settimana. E quante ce n'è da raccontare oggi? Oh, perché abbiamo gli arretrati lunedì di due giorni di perle. Voglio subito sapere da te, Sabaudo, dove avresti seppellito Vittorio Emanuele? Al Pantheon, in Congo, dove l'avresti seppellito? No, io dico che non mi fa nessun problema che tornino le salme, però il re del fascismo, delle leggi razziali e dell'8 settembre, con centinaia di migliaia di soldati italiani lasciati allo sbando, ai lager e alle stragi come quelle di Cefalonia fatte dai nazisti, no, secondo me al Pantheon non ci deve stare. Io sono uno di quelli che dice che bisogna riconciliarsi nella storia. Detto questo, sono perché la storia non si dimentica. Quindi per una volta siamo concordi, ma è bene così, i cani e i gatti possono concordare. Volevamo sentire una testimonianza e anche avere un aggiornamento da Laura Tarantino, lavoratrice della Melegatti, una azienda che è finita nelle cronache e anche un po' nei social con una grande campagna, comprate, acquistate, per cercare di salvarla. Buongiorno Laura. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, mi aveva molto impressionato, vorrei che lei lo ricordasse, lavoratori di Radio 24, voi siete di San Giovanni Lupatoto, un paese che ha più aziende che abitanti, c'è anche la rana, come molti sanno, e avete veramente combattuto insieme dirigenti, quadri, operai, tutti per salvare questa azienda dalla crisi. Sì, beh, è andata proprio così. La crisi viene un po' lontano, però poi si è concretizzata quando, a rientro delle ferie, la fabbrica non è più ripartita. E cosa si poteva fare? Poco dal punto di vista dei problemi strutturali della fabbrica. La cosa invece che è stato possibile e che sicuramente ci ha dato una mano è stata la testimonianza con il presidio fuori dai cancelli, che non era un presidio di protesta, ma un presidio di resistenza, per e cui di testimonianza. Siamo stati tutti lì. Eh sì, perché lei poi non lo arrivava lo stipendio e non arrivava nessuno. Lo ha raccontato spesso, tutti i pasticceri si sono alternati gratuitamente per tenere vivo il lievito madre, che era importantissimo per l'azienda, come forse non molti sanno. Sì, beh, più che importantissimo era indispensabile, perché comunque la speranza, la voglia, la necessità di ripartire poteva avvenire solamente se ci fosse stato il lievito madre vivo, e quindi in un'assemblea fatta proprio al di fuori, dove c'erano tutte le maestranze, dove si decise di iniziare con il presidio, si decise anche di mantenere assolutamente la pasta madre attiva, perché poi altrimenti sono che si fosse potuti ripartire. Se non c'era la pasta madre non sarebbe stato proprio assolutamente possibile, cioè, avviare un processo di lievitazione con le quantità necessarie per una panificazione importante ci vogliono giorni e giorni. Quindi allora, quasi uno sciopero al contrario, in cui avete continuato a lavorare per preservare questo bene. Ma la domanda che le faccio è: qual è la situazione adesso? Perché avete avuto tanti ordini, poi c'era ancora cassa integrazione, adesso qual è proprio il fotogramma di queste ore? Allora, io non sono aggiornatissima, perché in questi giorni sono stata in ospedale per un'operazione, quindi forse l'ultimo passaggio l'ho sicuramente perso. Al momento la fabbrica è ripartita, oggi e domani ci sarà produzione per un paio di giorni, e dopodiché c'è la preparazione della prossima campagna, che sarà quella di Pasqua. Però diciamo che non si sta tranquilli, la situazione è comunque molto delicata, c'è una situazione, una procedura commissariale, per cui bisogna andare e far quadrare parecchie situazioni, insomma anche economiche e finanziarie, e vedere come andranno i pagamenti degli stipendi prossimi. Bene, Oscar. Io penso che questo modello di resistenza, per così dire, compresa nelle ragioni dell'impresa, dovrebbe diffondersi. Penso che sia un ottimo esempio che viene da una tempra di lavoratori che evidentemente sono attaccatissimi all'azienda. Naturalmente ci sono due cose che voglio aggiungere. Da una parte le responsabilità che hanno manager azionisti quando le imprese di un ramo che va bene in Italia, bisogna dire, questa non è la regola, questa è l'eccezione, evidentemente errori di management ci sono stati, non deve far pensare che appunto siamo ancora, almeno per quel settore dico, in queste condizioni che erano molto più diffuse nel recente passato. Dall'altra parte però invece questo esempio secondo me dovrebbe far riflettere molti altri dei 150 erotti purtroppo tavoli di crisi che restano ancora aperti al Mise, perché atteggiamenti così credo che possano aiutare a risolvere, non sanno gli errori del passato dei management e degli azionisti, ma per così dire accendono un enorme fuoco di visibilità per coloro che dicessero: se ci credete, mettete, investite, fatevi vivi. Ecco, questa è una cosa che voglio sottolineare perché va a loro merito. Bene, allora Laura, la ringraziamo, vi facciamo tutti grazie gli auguri. Grazie a voi, incrociamo le dita. Esattamente. Assolutamente sì. Sai Oscar, che qualcuno dice, ah vabbè, ma adesso voi state discriminando le altre aziende. No, questa è un'azienda, gli altri lavoratori che lavorano anche loro meritoriamente. Certo, però questa è un'azienda in difficoltà, se non chiude è un bene per tutti. No, non c'è concorrenza in questo caso. Rassicurami, no, ma tanto tu, voglio dire, no, pure per i nostri ascoltatori, la concorrenza sugli scaffali di tutta la grande distribuzione, come vedete troverete centinaia di metri dedicati alla concorrenza, voglio dire apertissima sul settore dolciario per Natale, feste e così via, quindi non è quella. Il punto è sottolineare che esistono delle vicende di crisi acutissima in tutte le storie italiane, però ecco, in alcuni settori ci sono delle vicende particolari che vanno sottolineate proprio per la carica di coinvolgimento non ordinario, cioè non si tratta semplicemente di dire scioperiamo, chiediamo i nostri diritti e così via, si tratta di dire siamo qua e siamo i primi che pongono le condizioni della continuità. Ecco, questo mi pare da sottolineare, questo non c'entra la concorrenza insomma. Allora, 800240024 per chiamare, 349-238-6666 per i vostri messaggi in diretta, e soprattutto io non dimentico mai la segreteria, perché nella segreteria lasciate i vostri messaggi più profondi, più anche personali, il bel racconto delle mattine, quindi 02-30-22-4492. Siamo quasi a 3 mesi, se volete mandare un messaggio a me personalmente 339-268-5546, così vi abbiamo dato tutti i numeri e oggi c'è molto su cui intervenire. Oscar, si arriva finalmente dal 1 gennaio, finalmente, ma con opinioni diverse, all'equiparazione uomo-donna dal punto di vista previdenziale, totale, parità assoluta. Che ne pensi di questo? Io sono favorevole, tu sei contrario? Ma penso che in qualche modo, sai, chi ha l'onere della gravidanza e spesso rinuncia a carriera, rinuncia a scatti di promozione, in qualche modo debba essere compensato. Le donne hanno questo compito che né io né te possiamo svolgere nell'equilibrio dei ruoli familiari. No, io penso invece che siccome i dati dimostrano nei paesi avanzati inequivocabilmente che quelli con i più alti tassi di partecipazione al mercato del lavoro femminile sono anche quelli con i più alti tassi di fecondità e quelli che non stanno tragicamente al di sotto del tasso di sostituzione di 2,01 nati per donna, è il contrario, nel senso che noi ci dobbiamo dare da fare perché ci sia occupabilità per le donne. Non dobbiamo premiare con trattamenti previdenziali diversi una condizione che evidentemente introietti e accetti anche tu facendo il ragionamento che hai fatto e che è sbagliata sia dal punto di vista dei diritti che dal punto di vista economico. Sto discriminando le donne, hanno la gravidanza, gli uomini no. È così, ti mando in pensione prima perché io scusa Oscar, accetto anche io. No, è la natura, non è la natura, non è la natura, perché nei numeri degli altri paesi europei c'è un tasso di partecipazione più elevato. Non è la natura, stai accettando come condanna genetica di genere, voglio dire, una cosa che non è affatto una condanna, perché i numeri degli altri paesi dimostrano il contrario. E ripeto,

di impegnare, diligenziare gente, perché dobbiamo risparmiare, perché è un audio un po' sporco, ma è il discorso in cui Michiché, parlando in terza persona, dice che con lui presidente, con Michiché presidente, non si taglierà nessuno stipendio di quelli tanto contestati dei dipendenti della regione Sicilia. E poi ci mette pure l'avverbio, ride Oscar, stai ridendo, ma rido amaramente, ridi per non piangere, rido amaramente, capisci? Cioè, che cosa devo fare di fronte al fatto che la Sicilia, che ha metà dei abitanti della Lombardia, ha un numero di dipendenti che è 4 volte e mezza superiore, cosa devo dire di fronte a simili parole? Non amo il risparmio. Ho sentito bene? Non amo il risparmio. Benissimo. Allora, Francesco Merlo, perché dedicare addirittura un ponderoso fondo a questa vicenda di Michiché? Cosa racconta? Ancora la Sicilia che racconta qualcosa dell'Italia? 800-24-0024 per chiamare. Perché ancora una volta è un segnale che arriva dalla Sicilia, che si sa è il laboratorio politico, ma inteso nel senso di gabinetto di indecenza, cioè un posto dove si azzardano cose che altrove non indecenza, lo dici da siciliano. Indecenza. Qui che cosa è successo? È successo che Gianfranco Michiché è candidato alla presidenza dell'Assemblea regionale, che è una carica istituzionale ovviamente, è stato impallinato dai suoi, cioè dal centrodestra. Perché? Perché il centrodestra è diviso e, come si sa, è stato eletto nello Musumeci e quindi c'è una destra legge e ordine, e a questa destra legge e ordine non piace Michiché, nonostante faccia parte di un patto complessivo che è stato fatto fra Nello Musumeci e Silvio Berlusconi. E quindi come si fa a non votare qualcuno a cui tu hai promesso quella carica? Si fa con i franchi tiratori. I franchi tiratori sono una cosa che ha dominato il Parlamento italiano per 60 anni, ai tempi del proporzionale soprattutto, perché sono tipici del proporzionale, e sono i fucilatori, i cecchini, che nell'ombra votano contro il candidato che li rappresenta. Vi ricordate i 101 del PD, certo, che bocciarono la candidatura di Prodi? Questi sono i cecchini. Ebbene, che cosa è successo? È successo che è stato salvato da i franchi soccorritori del PD. 4 deputati regionali del PD hanno votato per lui, hanno sostituito, sono stati chiamati anche loro franchi tiratori, ma impropriamente, perché i franchi tiratori appunto sono quelli che impallinano il proprio candidato o l'alleato, mentre qui sono venuti in soccorso di Michiché. Ed è stata quindi una vittoria che Michiché ha salutato con uno dei suoi discorsi tipici da predatore alfa, no? Quindi ha detto che questa sorpresa lui l'aveva preparata e che quindi non era una sorpresa, ci aveva lavorato, come ovvio, e poi ha annunciato il programma, il profilo, ha mostrato per cui è avvenuto tutto questo. E cioè che cosa? Che lui è contro i tagli, ha detto con me il taglia non ci sarà. Poi ha detto che vuole cambiare, abolire la commissione antimafia, perché sì, chi siamo noi che ci sostituiamo a Dio, e quindi ha espresso il suo programma per il quale sì, che poi è un paradosso, Francesco, perché il suo è un ruolo di garanzia, di coordinamento, di calendarizzazione parlamentare, non dovrebbe essere un uomo che fa un programma esecutivo, quello è il presidente, quindi è strana pure questa cosa. Sì, anche se si tratta di una commissione parlamentare, quindi non si tratta di un atto di giunta, no? Quindi è una cosa che viene eletta sotto il segno della presidenza dell'Assemblea, le commissioni sì, parlamentari. Sì, mi riferivo al tagliataglia, diciamo. No, al tagliataglia. Beh, anche quello che io e Oscar sogniamo in Sicilia, tagliataglia sui forestali, su tutti. Lui parla dei dipendenti regionali, quindi parla cioè di quelli che stanno dentro la regione Sicilia e sono dipendenti della regione, parla soprattutto di questi. Anche lì la sua posizione è molto più importante di quanto si creda. Lì dietro c'è questa specialità della Sicilia che andrebbe abolita. Esatto. C'è una di quelle cose che non si riesce a fare in questo paese. Certo, è una riforma costituzionale, però è una riforma veramente importante. Basti pensare ai beni culturali che sono nelle mani della Sicilia, che sono, credo sia, è un numero difficile da fare, ma credo che si arrivi al 60% dei beni culturali italiani, tanto ricche. La Sicilia adesso sono nelle mani di Vittorio Sgarbi, che comunque è certamente un uomo che capisce di arte e di beni culturali, però non dovrebbe stare nelle mani di un assessore regionale, onestamente, questa ricchezza. D'altra parte, già all'Assemblea Costituente Concetto Marchesi si batté contro proprio questo pezzo dello statuto, quello che dà alla regione siciliana il diritto di gestire i beni culturali, che ovviamente appartengono all'Italia e all'umanità, al mondo, e che quindi il fatto che siano gestiti da un assessore regionale, che in genere purtroppo è inesperto, inadeguato, certo, non ha competenza. Fresco. Allora, in attesa, Adriana da Milano, Oscar, su questo discorso di sprechi, tagli e ottimizzazione. Ma come ti dica, secondo me Micichè, che comunque eserciterà un ruolo politico fondamentale, perché nelle liste, nelle alleanze si è capito quanto per il centrodestra ha contato nella composizione delle liste, voglio dire, nel difendere gli impresentabili cosiddetti. Mesumeci ha dovuto far buon viso a cattivo gioco, insomma, l'ha detto più volte, però coglie come sempre Micichè e dichiara una retta che purtroppo tira, non solo in Sicilia, mi dispiace dirlo, perché purtroppo è così, cioè è finita la grande tensione della politica per almeno far finta di far quadrare i bilanci. Vedi oggi su Fare Finanza della Repubblica, e c'è il primo articolo che fa tira le fila del report di questo nuovo osservatorio sulla spesa pubblica che Cottarelli, l'ex commissario alla Spending Review, le cui proposte di 32 miliardi di riduzione della spesa sono rimaste nel cassetto, e vedrai che i dipendenti pubblici, malgrado lo stop per anni degli aumenti contrattuali, adesso c'è il contratto nuovo e io dico meno male, è giusto, e continuano a essere pagati il 18% più di quelli privati. I dirigenti di prima fascia vengono pagati il 96% in più di quattro altri grandi paesi europei, e quelli apicali il 65% in più. E questa roba qui noi continuiamo a non vederla. La politica ha capito che oramai è popolare dire ma no, la colpa è dei tedeschi, dobbiamo spendere di più. E infatti Micichè, alla punta più elevata di un sistema dello spreco, della dilapidazione, della spesa relazionale degli amici e degli amici, interpreta quest'aria. È diminuita, Oscar, c'è anche una bella polemica. La spesa è diminuita pubblica, del 5%. La spesa pubblica, non so da che anno a che anno dici che è diminuita del 5%. Io ti guarda, è una polemica di stamattina, Borghi Aquilini presenta un diagramma che la Lega sia diventata, nell'ultimo anno, che la Lega sia diventata a favore della spesa, del deficit, eccetera, questo è un altro parere. È relata a referi, però ripeto, a me quello che conta, e per me quello che conta, è che nei documenti ufficiali di contabilità la spesa totale è continuata a salire in presenza di tassi nominali di crescita del PIL ridottissimi, esattamente come le entrate. Le entrate erano nel 2010 770 miliardi di euro, le previsioni provvisionale della prossima legge di bilancio è 820 miliardi di euro, la spesa ancora di più. La spesa è aumentata dal 2010 al 2016 di 32 miliardi di euro e sarebbe aumentata del doppio, perché il doppio è aumentata la spesa corrente, se non fosse diminuita la componente spesa per interessi, purtroppo è diminuita tanto da agevolare la politica ad aumentare la spesa corrente. San Mario Draghi, che ci ha fatto diminuire di quasi 20 miliardi in 5 anni ciò che spendiamo ogni anno di interessi pubblico sul debito, e poi è ridotta, è scesa la componente di spesa per investimenti, altro errore della politica che continua a preferire l'aumento della spesa corrente. Quindi sai, a me che quelli che adesso si scoprono deficisti, da che erano i rigoristi anche loro, sto parlando della Lega, adesso dicano che la spesa è diminuita perché devono spendere più in deficit e vogliono stampare col torchio, fatti loro, però i numeri non è che possono violentarli. Detto allora, tutto questo, come vedi, Micichè lo condanneranno per quello che dice, come scrive giustamente, lo ringrazio, Francesco Merlo, ma non lo so, interpreta un'arietta che oramai è trasversalmente diffusa. Un'arietta. Allora, prima di salutare Francesco, il commento sul fatto del giorno, dove seppelliresti Vittorio Emanuele III, Francesco? Ma Vittorio Emanuele III io non lo seppellirei in Italia, ma se dovessi seppellirlo in Italia lo seppellirei al Pantheon. Però non essendo possibile questo, perché non è degno di quella Ecco. Perché i re devono stare seppelliti al Pantheon. Nel momento in cui accettano di non stare seppelliti al Pantheon, rinunciano, i familiari ovviamente, i discendenti, rinunciano alla regalità. Per cui in quell'arrivare in territorio italiano delle salme c'è una debolezza, c'è l'accettazione di un principio di essere re di secondo taglio, quindi di non essere all'altezza degli altri re che stanno seppelliti al Pantheon. Allora il discorso è molto semplice, un re è un valore negato all'Italia, cioè perché quel valore lì è stato buttato via proprio perché il re non è stato all'altezza, c'è stata la fuga, ci sono state le leggi razziali, c'è stata la guerra, il fascismo, eccetera. Quindi c'è un giudizio storico che nella testa degli italiani è veramente un valore negato, cioè qualche cosa che avevamo e che non è affatto un valore reazionario, come insegnano i grandi paesi europei come l'Inghilterra, eccetera. È un momento in cui l'unità nazionale, anche in una grande democrazia, ha la sua bellezza. Lì questo valore è stato distrutto, negato, e quindi che vengano, che tornino in Italia e vengano seppelliti in un cimitero non regale è una loro sconfitta, per cui è evidente che il re deve restare fuori Italia, perché è lì il luogo nel quale viene esaltata la sua regalità. Non perde la regalità se resta fuori Italia. Molto interessante. Allora, resta con noi se hai ancora tempo. Adriana da Milano, 80024 le vostre telefonate. Su cosa vuoi intervenire, Adriana? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sul discorso delle pensioni. Per dire che sono perfettamente d'accordo con Giannino sulla parità, non vogliamo un trattamento diverso e un po' da panda. Vorrei stimolare, anche visto che siamo a Natale, regalate alle femmine dei giochi, non lo so, la macchinina o dei videogiochi, ai maschi regalate la bambola per insegnargli che saranno dei papà che accudiranno i propri figli, regalategli un ferro da siro giocattolo per insegnargli che potranno anche loro pulire casa. Non è una questione di genitali, essere dei buoni genitori, essere presidente della Repubblica, essere dirigente di un'azienda. È una questione di capacità, di virtù, indipendentemente dal sesso. Mi piace molto il suo intervento, anche se guardi, io sono al contrario, non regalerei un ferro da stiro neanche a una bambina. Mi sembra una cosa, come dire, non mi pare si conquisti la parità delegando qualcuno alla caricatura della piccola domestica, però è interessante questo suo punto di vista. Pensi che un nostro ascoltatore ci dice addirittura che è sbagliato dare un beneficio alle donne perché campano, testuale, 5 anni di più. Mi sembra delle follie, siamo diversi nel mondo. Allora, se non è lo sconto previdenziale, chiamiamolo così, accettando una possibile obiezione di Oscar, deve esserci un altro beneficio, perché sicuramente il tempo e la gravidanza è un tempo che fa bene alla società. Siamo in un momento di abbattimento delle nascite, bisogna fare in modo che ci sia il massimo dell'assistenza, anche economica, anche economiche. Cioè, bisogna riorientare la spesa sociale meno alle pensioni e più al sostegno alla famiglia, ai giovani, alle donne. Questo è il punto, perché siamo anomali nella quota di ripartizione della spesa sociale, che in questo è allineata con quella dei grandi paesi in percentuale al PIL, ma noi ne spendiamo una componente elevatissima, più del 16% del PIL per le pensioni. Più spesa sociale e assistenza. Francesco, l'esempio francese, per tanto tempo hai lavorato per Repubblica da Parigi, lì c'è un'assistenza molto forte, funziona secondo te quel modello sulle natalità? I dati sembrerebbero confermarlo. C'è un aiuto alla famiglia, come diceva Oscar prima, molto forte dal punto di vista fiscale. Cioè, quindi la famiglia viene sostenuta in questo cioè, modo. C'è una specie di bonus, no? No, c'è un quoziente familiare, nel senso che qui da noi è l'individuo l'unico soggetto dell'imposizione in famiglia, e abbiamo abolito, da metà degli anni 70 fu la Corte Costituzionale ad abolire, allora poi c'era il cumulo dei redditi in famiglia in Italia. La Francia, che pure è un paese ad altissima imposizione, ha questo quoziente familiare, quindi ti cambia il reddito cumulato a seconda della numerosità della tua famiglia, Luca. E quindi è una bella differenza fiscale, diciamo, è la formula con cui raccontare uno sconto fiscale. È uno sconto fiscale ed è una cosa importante e seria, che aiuta appunto la famiglia a sopportare il carico della spesa. Per quanto riguarda il genere, io sono sostanzialmente d'accordo con la signora, anche se lo dice in maniera un po' estremista, perché in realtà le bambole si regalano anche ai bambini, pupazzi, bambole, non c'è poi più tanta differenza tra un pupazzo e una bambola, cioè non c'è onestamente una grande differenza. Lei dice che Big Jim non ti prepara alla paternità. Ma perché lei dice una cosa che è un po' estremista quando dice che bisogna insegnare ai bambini a pulire la casa. Ecco, questo non è un gioco, e quindi non c'è ragione di insegnare un bambino a pulire la casa. Dopodiché, se un bambino, quando si fa la tavola o quando si lavano i piatti, aiuta, pur essendo maschio o essendo maschio o essendo femmina, non ha importanza, aiuta la famiglia a far questo. Cioè, io ho tre figli, i miei tre figli l'hanno fatto tutti e tre, maschi e femmina, e nelle scuole inglesi apparecchiare la tavola e servire a tavola lo si fa come materia di studio. Quindi addirittura sentiamola la signora Adriana, però se no la bombardiamo senza sentire la sua opinione. Signora, è ancora là? Sì, sono ancora qui. Ma per quanto riguarda il discorso della maternità, c'è una sperequazione anche lì, perché gli uomini possono prendere tre giorni di paternità. E questo secondo me è sbagliato, dovrebbero poter avere molte più occasioni, molta più welfare rispetto alla paternità. E rispetto ai giochi invece no, ai bambini si insegna tutto tramite il gioco, anche noi adulti a volte impariamo tramite gioco. Per quello che dico, insegniamo ai bambini giocando che possono fare tutto, non hanno limiti. Insegniamo ai maschi che se piangono non sono delle femminucce. Insegniamo alle femmine che se sono capaci possono diventare quello che vogliono, non hanno limiti, non abbiamo limiti genetici, abbiamo semplicemente limiti magari cognitivi, ma non dipende dalla genetica tutto questo. Ma questo io penso... No, scusi, dalla genetica, dal genere. Certo, no, penso che noi cerchiamo di farlo sempre, anche Oscar Giannino come padre è perfettamente... paritario, però usi un avverbio di cui ti ringrazio, ma non sono perfetto. Come, che giochi regali a tuo figlio? Io sono un po' curioso. Mi chiedi una cosa, qui adesso mi fai litigare con mia moglie, perché a casa mia mia moglie ne regala troppi, questa è la mia opinione, e siamo distinti. Quindi non regali nulla, ho capito. E finiscono, siccome il primogenito è maschio e c'è un'infinità di giochi per macchie, automobiline, cose eccetera eccetera, la sorella cresce con i giocattoli del fratello, che sono un'infinità. E quindi lei cresce, vedi, con questa perequazione. Francesco, nell'educazione dei figli, paritario, paritetico, come ti sei comportato? Paritario. Cerco di essere paritario, magari a volte non ci riesco, visto che... Però non hai regolato bambole ai figli maschi. No, ho regalato per esempio una cucina a mio figlio maschio, una grande cucina finta, uno dei figli maschi, perché gli piaceva giocare con la cucina. E vedevo che era un gioco che gli piaceva. Quando siamo andati al negozio gli è piaciuto e gliel'ho regalato. Però io penso che è vero che si insegna col gioco, però non è detto che il gioco porti a fare quello che il gioco indica, perché io ho regalato anche le pistole ai miei figli, hanno giocato con le pistole, non sono degli sparatori, sono diventati adulti e non hanno pistola, non hanno nessun amore per le armi. Quindi voglio dire, con il gioco bisogna stare attenti, perché bene, la frase che si insegna col gioco è bella, però in realtà è molto complicata. Allora, Alessandro a Genova, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Volevo un attimo riprendere un po' una frase che ha detto Giannino nel momento in cui si parlava della Mele Gatti, che dava delle responsabilità ai dirigenti. Ma io penso che in questo momento aziende come la Mele Gatti abbiano fatto una scelta dove mantenere lo stato occupazionale, perché molte di queste fabbriche hanno tutto ormai automatizzato e pertanto all'interno della loro struttura ci sono pochissime le persone che lavorano e tutto viene fatto in automatico. Mentre in fabbriche come la Mele Gatti invece il rapporto umano, anche l'apporto umano è importantissimo. Quindi oggi siamo a un bivio dove aziende si devono decidere se l'occupazione è fondamentale, devono essere aiutate anche da aiuti di Stato, e non si può sempre nasconderci, l'Europa non la vuole l'aiuto no, guardi, l'Europa non c'entra niente, guardi, le aziende vanno male in un settore che non va male in Italia, e chi le conduce che ha sbagliato, manager e l'azionista. Se lei pensa che è colpa dell'Europa, deve rivedere un pochino la sua idea. Abbiamo al telefono Claudio Borghi Aquilini, grazie per questo intervento tempestivo, perché ho evocato un suo tweet sulla spesa pubblica e volevo Oscar ha parlato di lei e volevamo sapere, è calata o è veramente o no la spesa pubblica in Italia, Borghi? Beh sì, è stata tagliata, poi come somma purtroppo vanno dentro anche delle voci che non dipendono dal governo, tipo per esempio gli interessi sul debito, la spesa pensionistica, no? Così questo tipo, ma la spesa corrente, quella che tante volte piace, è stata tagliata da Monti, diciamo anche un pochettino prima, diciamo da tre Monti in avanti, va da quella sciagurata manovra dell'agosto 2011 in avanti, e il risultato è stato, come da manuale, recessione. Perché la spesa pubblica, così come le tasse, sono come una specie di acceleratore o freno, ecco. Quindi significa che non è che bisogna sempre accelerare o sempre frenare. Claudio, lo sai meglio di me che i tagli sono fatti sul tendenziale, alla fine dell'anno il livello reale della spesa è superiore magari al taglio sul tendenziale, il tendenziale a legislazione vigente salirà di 20, allora la politica dice abbiamo tagliato 15 miliardi, no, l'effetto è aumentato di 5 miliardi, nei saldi funziona così. Poi naturalmente rispetto al punto di vista di chi politicamente la pensa come la pensi tu e il tuo movimento politico, a me spetta dire se uno va a vedere sui saldi sale. E la spesa corrente, ripeto, sarebbe salita di quasi 50 miliardi dal 2012, e salita di 25, perché sul saldo totale della spesa a diminuire quella spesa per interessi, San Mario Draghi, e purtroppo spesa per minori investimenti. E su questo uno può vedere, ma le cifre sono quelle. Allora siamo in chiusura, una battuta dei grafici ai Borghi, poi ci risentiremo presto. Accetta la mozione Giannino? No, ma non accetto, perché non è una questione di opinioni della mia parte politica, cioè il fatto che la spesa pubblica porti crescita quando c'è recessione è un fatto, ci sono dei moltiplicatori, bisogna vedere quanto. Certo, è ovvio che se stai crescendo fortissimamente la spesa pubblica, e c'è piena occupazione, la spesa pubblica porta inflazione. Bene.